Avelo Production Music. RTNG, città di sinistra ti porta, volo vita, e tu me lo amma, città, ci porta, ti passa mua, corso d'ana, dammi la tua bandana, corda d'ana, dammi da di cose papola, da di agenda, una hepa, cambali cose papola, da ora, quanta in vita la di corporà, dammi da di cose, mi se bagno di morà, di la cosa in me, I'm a cloud.